ti si presenta con le fotocopie di Mimesis, insomma viene guardato male. Non so se lo capisco, io chiederò, dice, cos'ha lei? Ah, Mimesis o le fotocopie? Dice, le fotocopie, vabbè. Non dico nulla però, perché è uno dei caposaldi della cultura critica del Novecento. Ciò detto, facciamo comunque le fotocopie per i particolarmente indigenti per questo, e poi c'è il libro di Agosti. Poi c'è il libro di Agosti che comprerete naturalmente. Insomma, è un programma, voglio dire, non come quelli che davo una volta, quindi si chiederanno le virgole e i punti e virgola. Mi guardate negli occhi, avete ben capito? Io li vedo molto bene. Voi vedete bene me? No, sto guardando quella ragazza là in fondo, la vedo molto bene, le confesso. Ha capito? No, ho detto due cose. Le virgole e i punti e virgola. È chiaro per tutti questo? Fatti chiari? Detto tutto ciò, il lunedì, cioè oggi, darò per il terzo anno i moduli, voi dovete portarli quelli di Flaubert, li dovete portare giovedì, adesso possiamo passare al nostro discorso. Cos'è che chiederò? Decisiva, no? La pagina decisiva di questa storia che avrete seguito. Stiamo parlando, lo dico per qualcuno che non fosse informato, stiamo parlando di Flaubert, lo dico anche a lei, e di un romanzo che si intitola Madame Bovary. Un cavolo, e allora non potevo più perseguitare. Ho fatto bene. E vediamo quindi il capitolo. Il capitolo 1, 45, perché il 44 è proprio quello che non è l'indice, l'abbiamo visto l'altra volta, non è l'indice, che si concentra dal punto di vista della nostra analisi su tre fantastiche battute, Charles, quando dice non eri felice, e questo naturalmente il lettore non può che cogliere con un senso di sgomento di fronte alla stupidità di Charles, ma come non eri felice? Sarebbe stato come chiedere a uno che sta in un campo di concentramento, ma non eri felice nel campo di concentramento? Charles così poco ha capito della moglie, ecco, ci sono molti Charles in giro, questo ve lo dico. Molte persone che capiscono poco del proprio coniuge, non è infelice, e poi dice quest'altra frase meravigliosa per come si adegua al personaggio: è stata colpa mia? Cioè la prima cosa che pensa è di essersi e di aver fatto lui delle cose, sta vedendo in mente in questo momento questo è stata colpa mia, no? Quando uno ha un idolo, quando uno ha un idolo, gli viene sempre in mente di essere lui il colpevole se qualcosa non va. Nella favola, intendiamola in senso laico, dico qualcosa di un po' eretico, insomma, nella favola, diciamo così, del cristianesimo, c'è la colpa che ha l'uomo, peccato originale, eccetera, eccetera. Non si parla mai della colpa di Dio. Ma se invece l'uomo non avesse avuto alcuna colpa, se tutta la storia del peccato originale fosse un'invenzione e invece ci fosse stata un errore di Dio, ma quando noi amiamo qualcuno, e questo è il punto, come si suppone che l'uomo ami Dio, Dio è l'oggetto emblematico d'amore, noi quando amiamo qualcuno tendiamo a dare in un dissapore la colpa a noi medesimi, non all'idolo, non al Dio. Il rapporto con il sacro, sia per uno che è credente sia per uno che non è credente, rimane un fatto indubbiamente centrale nella vita umana. Quindi la prima cosa che dice Charles è proprio questa: ma non è colpa mia. E poi dice una frase di struggente umanità, in cui si comincia a vedere la rivalutazione della figura di Charles che Flaubert fa in quest'ultima parte. Noi vedremo con un colpo di genio straordinario dello scrittore che questo stupido sale nella gloria dei cieli. Perché? Perché in realtà è un uomo che sa amare. Parlavo con uno dei miei allievi, assistenti, il dottor Catoni, che mi ha fatto queste cose qui, eccetera, e proprio l'altra sera, siccome lui sta scrivendo una cosa su Flaubert, e l'altra sera mi ha chiesto se Flaubert è lo scrittore più spietatamente cinico in Francia prima di Céline. Però bisogna vedere, perché mentre Céline, il Voyage au bout de la nuit, libro meraviglioso del primo Novecento, è un libro senza valori, è un libro con una distruzione totale del senso del valore, e quindi di qui il cinismo poi. Il cinismo di Flaubert non è disgiunto da un senso del valore, lui ha dei valori molto forti, e però il suo cinismo nasce di fronte alla corruzione dell'uomo, quindi c'è però un senso del valore forte in Flaubert. E poi c'è una risposta disperata, cinica, di fronte alla corruzione, alla miseria dell'uomo. La rivalutazione del personaggio di Charles, che quindi è l'unico, mi pare, che si salvi alla fine della Bovary, vedremo, comincia proprio: io ho fatto quello che ho potuto. In fondo anche nel dettato dei Vangeli, no, si parla continuamente o spesso comunque di questo concetto. Ogni tanto chiedo conferma al Signore che sta qua, perché la sua faccia più anziana, diciamo così, mi dà un senso di conforto rispetto alle vostre facce, come dire, splendidamente latte, con una gocciolina. Lei è più anziano di queste persone. Ah, su quello non ci sono dubbi. Nel Vangelo si dice continuamente, si parla di uomini di buona volontà. Perché questo cavolo di roba è così, se mi sposto qui, vedo, non possiamo incontrarci spiritualmente. Devo stare qua. E uomini di buona volontà, e qui cosa dimostra Charles? Di essere un uomo di buona volontà, dice: io ho fatto quello che ho potuto. Nel mio matrimonio, come si dicesse, con l'espressione più, mi sono fatto un mazzo tanto, l'espressione che voi non romani non conoscete, ma lei lo sa cosa vuol dire mi sono fatto un mazzo, in genere si dice così. E con quali risultati? Andiamo oltre. E Emma, ed Emma che parla, dice: l'aveva finalmente finita con tutte le pazienze, le concupiscenze del suo, le turpitudini. E quali sono le concupiscenze a cui allude Emma nel paragrafo subito successivo? Quando ci si mette nella strada doppia del sesso e del tradimento, sono infinite. Anzitutto la menzogna è ininterrotta, bisogna mentire su tutto. Poi, come sapete, la grande difficoltà della bugia, perché uno deve ricordarsi le bugie che ha detto, perché se non le ricorda perfettamente cade in errore. Quando chiedono a lei, dice: ma non prendevi delle lezioni di pianoforte? Ah sì, dice, io devo avere gli scontrini da qualche parte, un po' come il presidente della regione Lombardia Formigoni, glielo chiedo: ma gli scontrini del viaggio che ti ha pagato il delinquente che sta in galera, ce li hai o non ce li hai? Dice: ma non lo so dove sono. Bisogna essere coerenti nella menzogna, ma una turpa turpitudine, proprio è molto facile segnalare questa, come molte canzoni hanno anche celebrato. Ce n'era una di Patti Pravo, non sapete, lei non sa chi era Patti Pravo. Patti Pravo era una cantante di musica leggera italiana, si chiamava Nicoletta Strambelli. E diceva in una sua canzone, che cosa terribile, far l'amore con lui pensando a te. Ecco, questa citazione molto raffinata vi può fare, l'avete capito, che è quando uno ha un amante, perché il punto è questo, che avendo un amante uno dà all'amante il 10% e alla moglie il 90%. Come dispendio di tempo, di energie, eccetera. Se non che, ascoltate bene questo distillato di profonda sentenza, l'amante sente il 90% che non ha e la moglie il 10% che non ha. Quindi l'adulterio è un luogo strano in cui si fanno scontente entrambe le parti. Capito? Di tutto questo Emma stava per liberarsi. Chiamano un medico e si apprestano le cure, ma non c'è, come vedrete, niente da fare. E quindi noi adesso, voltando pagina, passiamo al capitolo 45, capitoletto 45, che comincia con Elle tourna sa figure lentement et parut saisie de joie. Elle tourna sa figure lentement. Chi è che lo dice? 852? 452, e non sacagli in quel modo. Allora, sapete che un rito terrificante della Chiesa Cattolica, è l'estrema unzione. Perché quando arriva l'estrema unzione uno capisce che manca poco. Quindi alla paura naturale che ogni essere umano ha di morire si aggiunge la paura dell'estrema unzione. Io comunque anche a futura memoria, davanti ai miei studenti e con la certezza che nessuno di voi sarà il mio capezzale nel giorno del decesso, io non voglio l'estrema unzione. Lo dico adesso con le mie piene capacità di intendere e di volere, e mi affido anche alla testimonianza, potrei dire che è essenziale, ma invece per me è importante, del Signore qui, che mi sembra assai più consapevole di voi su queste cose. Quindi, lei come si chiama, scusi? Perché Gianni Cristiani. Gianni, io chiamo Gianni così familiarmente, perché... Ah, io l'ho detto tutto e due così. No, familiarmente. Allora sappia Gianni, mi piace trattarlo in questo modo qua, che non voglio l'estrema unzione, perché c'è da toccarsi i coglioni. No, non sto scherzando, io sono capace al momento dell'estrema unzione di toccarmi i coglioni per paura, no, non è una battuta, ha capito bene questo. Professore, c'è quel film, Ivan il Terribile, che dice l'estrema unzione mi ha guarito. La povera Emma gli dà questa emozione, ma in realtà Emma era stata una donna molto pia, e io vorrei che fosse ben chiaro a voi un'ennesima volta che non si tratta affatto di una donna depravata. Emma Bovary non è assolutamente una donna depravata, è una donna appassionata, delusa, stupida, sono queste le cose, che si lascia traviare dalla sua stessa insoddisfazione e quindi cerca altri uomini oltre il matrimonio, ma a lei si può addire perfettamente quello che avevamo detto. Che cosa cerca che in fondo cosa vogliono le donne, dicevamo con Flaubert, le donne vogliono l'eterno sposo. Lei non voleva l'eterno sposo, solo che peccato gli è andata male, ha trovato, come lei un giorno troverà l'eterno sposo e le va male. E quale sarà il destino che segue? L'arsenico, sicuramente, una cosa di questo genere qua. Ella volse il viso lentamente e parve presa dalla gioia di vedere tutta un tratto la stuola, la stola viola del prete. Senza dubbio ritrovando in mezzo a una pace straordinaria la volontà perduta dei suoi primi slanci mistici, con visioni di beatitudine eterna che cominciavano. Il prete si alzò per prendere il crocifisso. Allora ella allungò il collo come qualcuno che ha sete e, incollando le labbra sul corpo dell'uomo Dio, vi depose con tutta la forza spirante che stava diminuendo il più gran bacio d'amore che avesse mai dato. Poi recitò il Misereatum e l'Indulgenza. Intinse il pollice nell'olio, il prete, e cominciò le unzioni. Prima sugli occhi, sentite questa cosa meravigliosa, prima sugli occhi, che avevano tanto concupito tutte le sontuosità terrestri, poi sulle narici, ghiotte di brezze tiepide e di sentori amorosi, poi sulla bocca, che si era aperta per la menzogna, che aveva gemuto d'orgoglio e gridato nella lussuria, poi sulle mani, che si dilettavano ai contatti soavi, e finalmente sulla pianta dei piedi, così rapidi un tempo, quando ella correva ad esaudire i suoi desideri e che adesso non avrebbero camminato più. Questo mirabile passo è citato normalmente per mostrare come la imperturbabilità realistica di Flaubert qui di fronte a questa scena venga meno e lui si emozioni, e non si può dar torto, questo passo è struggentemente romantico, insomma, no? Ma vedete, la cosa ci interessa perché quando lui diceva io non sono un realista, diceva anche qualcosa di vero, cioè lui fa una descrizione dei personaggi così come sono, senza un'interferenza dell'autore, e questo è il principio a cui si attiene, punto primo. Ma punto secondo, l'autore però non è morto. L'autore c'è e interviene in certi momenti, interviene nelle descrizioni, l'abbiamo visto anche l'altro giorno, no? Interviene nelle descrizioni, ora più ora meno, quindi è ben vero che i personaggi parlano con la testa loro, come se fossero delle maschere della commedia dell'arte, ma è altresì vero che a volte il burattinaio si fa sentire, come in questo passo senza dubbio. Qui la partecipazione totale. Perché non disturba minimamente questa partecipazione? Non disturba perché è assolutamente giustificata, è l'eroina che sta morendo e quindi non si può altro che abbracciarla teneramente. Guardate questa descrizione, la prima cosa interessante da dire è di questo fatto che di fronte al crocifisso lei allunga il collo. In altre occasioni flaubertiane noi troviamo delle donne che allungano il collo, e questo allungare il collo fa pensare a un animale, nella fattispecie fa pensare a una gallina, eh? Abbiamo già definito a suo tempo il dio Oca, ricordate, ma avete presente una gallina che allunga il collo? Questa immagine di degradata che assume Emma risponde a due cose: alla misoginia che rimane sempre in Flaubert, perché il suo personaggio, pure amato, è oggetto di disprezzo in quanto donna, l'abbiamo visto molte volte, il dio Oca, no? e alla tenerezza. E poi a una terza cosa vorrei dire: chi vive impennacchiato nella propria bellezza, donna in particolare o uomo, sta per dire che sia, nel momento della morte o anche prima, si riduce a un cencio. E quindi dicendo, paragonando paragonando implicitamente Emma a una gallina che tira al collo, è come dire: guardate a che cosa si riduce l'uomo in prossimità della morte, guardate a quale condizioni esteticamente degradate si riduce. Quindi allunga il collo e viene benedetta nelle varie parti, negli occhi che abbiamo visto, nelle narici. Mi colpiscono queste delle narici soprattutto, perché il sesso è fatto di odore, come sapete. Noi siamo attratti, senza saperlo, da un altro essere umano, sulla base del fatto. Ci sono studi scientifici in questo senso qua. Non ci rendiamo conto, ma quello che ci attrae è un fatto. E tutti sappiamo poi anche come nelle strette più profonde dell'atto sessuale quanto sia importante un fatto, non vado in descrizioni, potrebbero turbare le vostre pur già depravate menti, ma insomma se voleste vi potrei fare un seminario sull'argomento, però non lo farò, lo do per fatto sostanzialmente di come il naso sia importante. Sono esplicito sufficientemente? Chiedo la tua opinione, perché non so, mi posso fidare. Le piante dei piedi, già, perché non abbiamo potuto considerare una cosa bellissima, di quando un passo, bellissimo, di quando la mattina lei scappa di casa e va a casa di Rodolfo. E quindi Rodolfo la vede all'alba capitombolare a casa sua. Ora dovete sapere che una delle tragedie quando uno ama di più degli amanti è che uno ti piombi addosso, questo soprattutto da parte delle donne verso gli uomini, ti piombi addosso quando tu non te l'aspetti. Perché la donna vede: ah, che meraviglia, arrivo da casa sua alle 5:30 del mattino. Ma lui alle 5:30 del mattino dormiva, e quindi non può fare che buon viso a cattivo gioco sostanzialmente, ma questa lieta invadenza femminile, e così completamente femminile, rappresenta comunque una pagina meravigliosa. Corre tra i campi bagnati di rugiada per andare da lui, no, a svegliarlo dolcemente. Andate sotto al capitoletto 46, che comincia con «Sa poitrine aussi se mit à l'aider rapidement». Il titolo del 45. Quant'è? La pagina presso, Il titolo del 45 è l'estrema unzione. Il titolo del 46 è la morte. Il suo petto... però poco prima ha detto questa cosa che non posso tacere, o meglio, dove? Ha detto qualcosa che non posso tacere. Si è fatta portare uno specchio per vedersi, perché vedete, non pensate che lo spettacolo della pristina bellezza non tocchi più chi sta per morire. È un'altra. Chi sta per morire sfiancato, naturalmente, una bella donna, quando Gianni e il sottoscritto moriremo non avremo il problema di farci portare uno specchio. Ma gli uomini no. Gli uomini no, cioè, oddio, se fossimo di certe tendenze magari, ma non so. Però belle ragazze sì, vediamo che una di voi, tocchiamo ferro, dovesse defuggere. Fosse prossimo, non guardo nessuno per evitare di portare iella, guardo lassù nel vuoto e al momento, non guardate che non vedo nessuno. nessuno, non vede nessuno, sta a montare uno specchio per vedere come sono ridotta la malattia. Come sono ridotta la malattia. Questa scena è di grosso effetto, lei che si va a portare lo specchio, e si vede come è diventata, è di grosso effetto. Ma noi non ci sogniamo di dire che Flaubert ha esagerato, perché siamo completamente partecipi. Il lettore intelligente qui a questo punto sta piangendo. Se non piange, meglio che vada alle capannelle, dove si attendono aiuti per gli equini. Aiuti si attendono, va bene? Questo vale anche per lei, ha capito? Che già la vedo un po' incline. Dopo che si è fatta portare lo specchio, si è messa a piangere su di sé, Tutto questo è molto umano. Piangere su di sé, ma che cosa c'è di più umano? Se gli altri non piangono su di te, tu piangi, ma noi tutti piangiamo su di noi. Quando una volta avevo letto una cosa molto interessante, che quando noi piangiamo, piangiamo sul nostro piangere, piangiamo per il fatto che stiamo piangendo, diciamo che Gioia aveva avuto una grave disgrazia, povera Gioia, dice così, e piange su Gioia, ma, e piange sul fatto che sta piangendo, capite? Il suo petto si mise subito ad ansimare rapidamente, la lingua intera gli uscì fuori dalla bocca, gli occhi roteando impallidivano come due globi di luce che si spengono, a crederla già morta, senza la spaventosa accelerazione delle costole, scosse da un soffio furioso, come se l'anima avesse fatto dei salti per distaccarsi. Felicité si inginocchiò davanti al crocifisso e anche il farmacista piegò un po' i garretti, mentre Monsieur Canivet guardava distrattamente sulla piazza. Bournisien, cioè il prete, si era rimesso a pregare, il viso inclinato contro il bordo del letto, con la sua lunga sottana nera che si trascinava dietro nell'appartamento. Charles era dall'altra parte in ginocchio, le braccia stese verso Emma. Aveva preso le sue mani e le stringeva, trasalendo a ogni battito del suo cuore come al contraccolpo di una rovina che incombe. A misura che il ranto diventava più forte, l'ecclesiastico affrettava le sue preghiere. Esse si mescolavano ai singhiozzi soffocati di Bovary e qualche volta sembrava scomparire nel sordo mormorio delle sillabe latine che tintinnavano come un rintocco funebre. Tutto a un tratto si sentì sul marciapiede un rumore di grossi zoccoli, con un fruscio di un bastone, una voce si elevò, una voce rauca che cantava. Sovente il calore di una bella giornata fa sognare alla ragazzina l'amore. Emma si rialzò come un cadavere che si galvanizzi, i capelli sciolti, la pupilla fissa spalancata. Per ammassare diligentemente le spighe che la falce ammiete, la mia Nanette va inclinandosi verso il solco che ce le offre. Il cieco, ella gridò, e Emma si mise a ridere d'un riso atroce, frenetico, disperato, credendo di vedere la faccia orrenda del miserabile che si alzava nelle tenebre eterne come uno spavento. Ci fu un vento forte quel giorno e la gonnella s'alzò. Una confusione la riabbatté sul materasso. Tutti si avvicinarono, non esisteva più. Naturalmente la descrizione viene fatta dal figlio di un medico che aveva un particolare poi gusto del discorso delle figurazioni. situazioni mancano, e quindi era documentatissimo in questo senso qui. E guardate dei dettagli interessanti. Nella chiesa nella chiesa cattolica c'è un'abitudine che le donne si inginocchiano e gli uomini che fanno? Io ricordo perfettamente che c'era il rosario, era la mia educazione cattolica, e c'era mia zia che si inginocchiava, rosario del mese di maggio. Mio zio no, perché il maschio, vedete che cosa lo rende, non può inginocchiarsi nemmeno davanti a Dio, deve inginocchiarsi a metà. Per cui mi ricordo come fosse adesso, mio zio metteva un ginocchio su una seggiola, però no, perché il maschio deve mantenere una sua virilità, piangere, eccetera eccetera. In questa scena vediamo che si inginocchia Felicité, la serva. Quando l'uomo, non per rispetto a questa convenzione che siamo nel cattolicesimo, ma per il fatto che l'uomo, cioè me, è un ateo, è un deista. Ricordatevi la differenza, che è una cosa che chiedo sempre agli esami sgomentando gli studenti, eccetera. Ateo, che è chi non crede in Dio, in nessun Dio. Agnostico, e che chi non si pone il problema di Dio, si pone il problema semmai nella propria non credenza. Quindi non può dire né che Dio ci sia, mentre l'ateo nega che ci sia Dio. L'agnostico dice: non posso dire niente. Il deista è quello che crede a Dio, cioè un Dio governa la nostra esistenza, ma non è quello delle religioni rivelate, non è quello ebraico, non è quello cristiano, non è quello islamico, è Allah. No, è un Dio che governa la nostra esistenza. Questo è il deista. Deisti erano i filosofi, cioè gli illuministi, Voltaire, Rousseau, chiaro? Homé è, nel suo piccolo, un deista. Per finire, il teista, con la T, è colui che crede che Dio ci sia nell'universo, in tutte le forme dell'universo. Quindi la natura è piena di Dio. Ecco. Da buon deista, Omé mette il ginocchio semplicemente piegato sul tavolo. Poi non dite che non mi spiego un sacco di cose, non dite una cosa del genere, come so che lei la dice. Perché se moriva il rito risultava incompiuto, capito? Più si affretta la morte, più deve dire in fretta le sue orazioni. Ma se le orazioni hanno un senso in sé, hanno un senso sia che siano interrotte sia che siano finite, no? Capite bene, insomma, soltanto l'ipocrisia vuole questo. E abbiamo quel punto che è determinante, che è il vecchio che abbiamo già visto, che stava dalle parti dell'hotel di Boulogne a dove i due andavano contubernalizzando, e che cantava questa canzoncina di cui però non capivamo il significato, ma adesso lo capiamo. Diceva così: sovente il calore di una bella giornata fa pensare alla ragazzina, la tua. Cioè basta un bel tempo, basta andare al mare, Come mai andando al mare? Chi di voi non è mai andato al mare? Nessuno, evidentemente. Chi di voi non ha mai sperato di avere un istuario al mare? Ma scherziamo, l'Erasmus, perché ci andate? Perché? Ma perché devo imparare la lingua? Lui si vede in faccia, perché voi dovete immaginare questo semplicemente. Il numero di vite che ho vissuto io, non sapete il numero. E quindi è l'ora arrivati verso la fine dell'anno. Quante vite ho vissuto, te lo dico? No, no, non esagero. 118. Potete immaginare. Mi conosco non con le tasche molto molto di più. E sovente il calore basta un nulla, no? Per far sognare la ragazzina l'amore. Adesso vediamo una cosa. La mia Nanette, dice questa strofetta popolare, era andata in campagna per raccogliere le messi tagliate, il grano, no? Per la qualcosa bisogna chinarsi. La mia Nanette va inclinandosi verso il solco che ci dà le messi. E lei ride, Emma, a questo punto, come se avesse, in un'immaginazione poetica, anticipato quello che sta per succedere nella canzoncina. Quel giorno ci fu un vento forte e la gonnella si alzò. Cosa vuol dire questa fine? Che la vita finisce a culo in aria. Le si alza la gonna, mostrando le sue grazie posteriori a tutti. Il concetto è chiaro o devo... Questa è una vita. Questa è la vita umana. Dal trionfo, dall'orgoglio, dalla superbia, tutto va a finire con una gonnella alzata. Questa è la visione drammaticamente, poeticamente vera che ha Flaubert. Così finisce la vita. Qui c'è naturalmente nel porcaccione, che è Flaubert, un'allusione sessuale, ma io ne ho un'altra per par condicio, per così dire, la propongo, perché poi che finisca una bella ragazza con una sedia scoperta è alligente, diciamo così. Ma prendiamo il caso dell'uomo. Sapete come finisce nell'uomo? Finisce che l'uomo è diventato potente, che tutti hanno paura come si muove, va bene? E all'ultimo è in un ospizio con un filippino o qualcuno che gli mette il cucchiaio in bocca e gli dice nonno mangia, dandogli del tutto. Vi rendete conto? E va a finire così per tutti. Uomini potentissimi diventano così. Quindi la storia della gonnella vale per tutti. Certo che per quanto riguarda il nostro Gianni, io francamente l'idea che la gonnella lui si alzi mi fa un po' inorridire, ma l'idea di vederlo invece imboccato, nonno mangia, forzandogli con il cucchiaio i denti, dandogli del tu, capito? Il più tardi possibile. E come vi ho detto più volte, io quando vedo dei giovani coppie filippine che girano per Roma, dicono la mia vecchia cosa è un pensiero fisso, vedo sempre, ma chissà se è già nato, questa è la mia frase, è già nato il filippino che mi soccorrerà. E allora rapidamente mi richiamo alla mia autosufficienza, no, riesco ancora a fare delle cose per il mio conto, così, ecco, perché poi arriverà quello, io lo vedo il gesto del... lo chiamerò così, guardate, questa è una cosa, il gesto del cucchiaio, sostanzialmente, ecco. Il gesto del cucchiaio, voltiamo la pagina. A questo punto siamo in lettura libera di un capitolo che è intitolato, che è numero 47, ma che si suddivide in vari brani, ma è sempre il capitolo 47, e gli diamo come titolo Dopo la morte. e rassegnarsi a credermi. Ma quando si accorse della sua immobilità, Charles si gettò su di lei gridando: addio, addio, Omega, e lo trascinarono fuori dalla camera. Moderatevi. Sì, diceva lui battendosi, sarò ragionevole, non farò del male, ma lasciatemi, voglio vederla, è mia moglie. E piangeva. Piangete, riprese il farmacista, date sfogo alla natura, ne avete conforto, vedete che questo non rinuncia a essere coglione in nessun punto. Divenuto più debole che un bambino, Charles si lasciò condurre in basso della sala e Monsieur Homais presto tornò da lui. E fu sulla piazza Monsieur Homais, il farmacista, accostato dal cieco, che era venuto a Jeanville nella speranza di, non ne parla prima, della pomata antiflogistica, chiedendo a ogni passante dove stesse l'apotecario, il farmacista. Ma su, come se non avessi altre gatte da pelare, ah! Peggio per lui, ritorni più tardi. Ed entrò precipitosamente nella farmacia, doveva scrivere delle due lettere, fare una pozione calmante per Bovary e trovare una menzogna che potesse nascondere l'avvelenamento e fare e dirlo in articolo per il Fanale, il giornale del posto, senza contare le persone che l'aspettavano, al fine di avere informazioni. E quando gli abitanti di Yonville ebbero sentito la sua storia dell'arsenico che l'aveva scambiato per zucchero facendo una crema di vaniglia, Homais, ancora una volta, tornò dai Bovary. Da Bovary lo trovò solo. Monsieur Canivese era andato nella poltrona vicino alla finestra, contemplando con sguardo ebete le pietre del pavimento della sala. E bisognerebbe adesso, disse il farmacista, che voi fissaste l'ora della cerimonia. Perché? Quale cerimonia? E poi con voce balbettante e spaventata: oh no, no, no, non è vero, io la voglio tenere qui con me. Homais, per darsi un contegno, prese una caraffa sullo scaffale per bagnare i gerani. Ah, grazie, disse Charles, voi siete buono. E non finì, soffocando sotto una un'abbondanza di ricordi che quel gesto del farmacista gli ricordava. Allora, per distrarlo, giudicò conveniente chiacchierare un po' con lui di orticoltura, le piante avevano bisogno di umidità. Charles abbassò la voce in segno di approvazione. Del resto torneranno presto delle belle giornate. As, fece Bovary. Il farmacista, a corto di idee, si mise a scostare lentamente le tendine della finestra. Ecco, laggiù c'è Monsieur Tuvache che passa, Charles ripeté macchinalmente. Monsieur Tuvache che passa. Homais non osò riparlare delle disposizioni funebri e fu il prete che giunse e lo risolse a questo. E si chiuse allora nel suo studio, prese una penna e dopo aver singhiozzato un po' scrisse: voglio che la seppelliscano nel suo abito di nozze, con delle scarpette bianche e una corona. Le scioglieranno i capelli sulle spalle, tre bare, una di quercia, una di mogano, una di piombo. Che nessuno mi dica niente, avrò forza. Le metteranno sopra un grande drappo di velluto verde, lo voglio, fatelo. Quei signori si stupirono molto delle idee romantiche di Bovary e subito il farmacista andò a dirgli: quel velluto mi pare una spesa eccessiva, ma forse vi riguarda? Esclamò Charles: lasciatemi, voi non l'amavate, andatevene. L'ecclesiastico lo prese sotto braccio per fargli fare un giro di passeggiata nel giardino, discorreva sulla vanità delle cose terrestri. Dio era grande, buono, si doveva senza protestare sottomettersi ai suoi decreti, anzi ringraziarlo. Charles scoppiò in bestemmie: io lo esecro il vostro Dio, lo spirito di rivolta è ancora in voi, sospirò l'ecclesiastico. Bovary era lontano, camminava a grandi passi lungo il muro vicino alla spalliera, digrignando i denti, alzava al cielo sguardi di maledizione, ma non una foglia nemmeno si mosse. Una pioggia bellina cadeva. Charles, che aveva il petto nudo di per abbrevidire, rientrò a sedersi in cucina. Alle 6 sentirono un rumore di ferraglia sulla piazza, era l'Hirondelle che arrivava. Lui restò con la fronte contro i vetri a vedere discendere gli uni dopo gli altri tutti i viaggiatori. Félicité gli stese un materasso nella sala, lui vi si gettò sopra e si addormentò. Vediamo solo l'inizio di questo momento. Dopo la morte di una persona, come vi occorrerà purtroppo a vedere nella vita, si crea immediatamente un grandissimo senso di silenzio, perché insomma il vero problema della morte è il male problema, il risolubile problema è il nulla, e questo nulla si cerca di esorcizzarlo, insomma. Se Dio è stato inventato, l'invenzione di Dio nasce naturalmente a contatto del problema della morte, che una persona che abbiamo amato come noi stessi, noi non possiamo pensare che non ci sia più, no? Mi ricordo ancora delle frasi che sentivo, non so, questa non è più la persona che tu hai amata, la persona non c'è più, la sua anima è altrove, questa è solo la buccia della persona, solo il suo corpo. E questo, diciamo, nel grande mito fondamentale dell'essere umano, che è il mito religioso, si dice, no? Pensate soltanto a fatti di cronaca di questi anni, insomma, i martiri dell'Islam. Il martire non è assolutamente convinto, facendosi saltare in aria con una bomba, che non ci sarà più, al contrario. Il martire è convinto di cominciare a vivere. Noi non accettiamo il nulla, questo è il punto sostanziale. Non accettiamo il non essere, per cui quando il non essere si personifica in modo crudele e immobile della morte, noi siamo sgomenti, non vogliamo rassegnarci. Ma guardate intanto Charles come continua a comportarsi in modo impeccabile, come seguendo il suo personaggio. Quando gli dicono stai fermo, stai calmo, lui dice non farò del male, come se lo potessero accusare di fare del male. Lui prima si è accusato dicendo forse è stata colpa mia, adesso dice non farò del male, perché Charles non vuole dare il colpo. E questa, come? Non vuole dare cosa? Non vuole dare ingombro. Ingombro. E questa classe dell'uomo che colpisce, no? Tutti questi personaggi mediocri, squallidi, e poi uno che non vuol dar noia, non vuol dar fastidio. L'ineffabile farmacista che crede al progresso e alla scienza, eccetera, dice piangete che questo vi farà star meglio, insomma, no? E poi si va innanzi fino a questa volontà che vengono dette da Bovary, e che cosa dice lui sostanzialmente Bovary a chi cerca di stoglierlo da questi suoi progetti di lusso, perché vuole che la moglie sia sepolta nel lusso? Dice voi non l'amavate. E allora qui alla fine del romanzo cominciamo a vedere qualcosa di straordinario che ci fa capire quanto alto sia il senso del valore del cinico Flaubert. Amare è una cosa meravigliosa. Non l'essere amato, perché Jacques Bovary non era amato, vuole illudersi magari di essere amato, però quello che sapeva con certezza è che amava, e questo lo fa diventare amato.